sfida i luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Nell'ultima puntata di Off Topic avevamo ospite Emanuel Casto, sì, che oltre a essere un cantante e un performer è anche presidente del Mensa Italia, quell'associazione che racchiude i più grandi intelligentoni. Esatto. Vabbè, intelligentoni sembra denigratorio. No, no, no, per gli intelligentoni, le persone con un quoziente intellettivo. Posso dire che la... No. Vada con calma, Salmetti. Le persone con un quoziente intellettivo più alto del 140, 150 e 200.000. Gli abbiamo chiesto una previsione di questo tipo, sentiamo. Nel salutare Emanuel, volevo chiedergli come ultima analisi quale dei tre sembra avere il QI più alto a questo punto. Allora, desumere il quoziente intellettivo da un confronto verbale non è scontato, quindi faccio fatica a dirlo. Beppe, dovessi Alessandro andare, Riccardo, direi via. Alessandro, dovendo sparare così. Grazie, grazie ragazzi. È che è il naso grosso, non c'entra nulla, sì, ma cioè, va bene. Un po' di cervello, sì, è anche qui. E allora, dato che siamo degli ossessivi, ma perché ho detto quella cosa del naso? Ma perché tu dici tante cose e non te ne rendi conto? Ma è bello così. Nulla, off topic è bello anche per questo. Tu però sostenevi di avere una parte di cervello che scende e va nel, sì, naso. Esatto, l'ho seguito in questa sua follia. No, ecco, dato che noi siamo degli ossessivi, anche un po' compulsivi, abbiamo, sì, detto adesso facciamo il test del QI e vediamo che cosa esce. Dal sito del Mensa, mensa.it. Esatto. Riccardo, che cosa ti è uscito? Allora, a me è uscito 112. Beh, mi sembra un pochino sopra, da quanto ho capito, la media. Che diciamola qual è la media? Più, no, più o meno la normalità sta tra il 95 e il 109, 110, 110, una roba del genere. Esatto. Sì, anch'io sono sul 112. Mi hai copiato? Ma no, hai copiato. Ma non si può copiare questo test. Come no? Perché tutte le volte ne genera, credo, di nuovi, cioè di nuovi rompicapi. No, non so, sì, sono, sì, test di logica, insomma. Sono dei rompicapo logici. Poi l'ho fatto anch'io e ho fatto 100. Vabbè, ma scusa. Tra l'altro ha smentito Emanuel Casto, esatto, sei più stupido dei tre. Sì, ma sei una tenca, sei, ma come, sì, si dice. Mi sono sentito un po' una tenca, però è successa una cosa particolare, perché il test dura 26-28 minuti. In 28 minuti devi risolvere una serie di quesiti logici. Sì. A 15 minuti dalla fine il sistema mi ha detto vattene. Ma come? Ma perché? Interrompi il tuo test, mi ha detto. Per quale motivo, perché, scusa, ha capito che stavo sparando a caso. No, cioè, ma veramente. Sì, perché a un certo punto tiravi a caso. Ma perché a un certo punto non ci capivo più niente. Ho detto, sentite, mi avete rotto le balle, vado a caso. E ma qualcosa... la parte è quella con le freccine, no? Quella con i quadratini. Ma è perché Alessandro ha un'intelligenza emotiva, ragazzi. Non è logico. Ah, invece, chi ha vinto è stato il nostro regista Andrea Roccabella, che penso abbia, sì, fatto 121. Me l'ha detto, sì, prima. 121. Meno male. 121. E per fortuna che c'è lui. Quindi lui potrebbe entrare al Mensa e noi no? No, no, no, no, no. Neanche tu, vedi? Al Mensa non ci vuole. Ma perché stiamo parlando del test del quoziente intellettivo? Oggi parliamo di intelligenza, perché affrontiamo un luogo comune a me tanto caro, che è intelligente ma non si applica. Usti. Ma chi? Lo studente. Ma chi è che è intelligente? Tra noi nessuno. Nessuno. Forse tu. No, no, Andrea, beh, sicuramente. Sei intelligente Beppe Salmetti, io sono Margherita di Savoia, non so cosa sia. Che ma cazzo di metafore fa? Ma cos'è? Stoggi va così. Stoggi va così. Beh, comunque, intelligente ma non si applica, lo dicono spesso a quegli studenti, sì, che hanno le capacità, però non si impegnano, non, sì, c'hanno voglia di fare. Secondo me è anche un modo, un po', da parte della persona che si sente intelligente ma non ha voglia di studiare, anche un po' di sedersi sugli allori. È vero. A me sembra una frase paracula. No. Cioè? Perché ti è venuta la voce, tra l'altro, di un personaggio della Disney cattivo? Secondo me. Ma dici dell'insegnante? Ma sì, ma ci vuole sempre giustificare. No, sa, suo figlio è intelligente ma non si applica, se studiasse di più, per farlo studiare, per spronarlo, che sennò rimane lì come una capra, non studia, non fa. È una menzogna. Comunque, anche a me è successo, ovviamente, ai tempi delle superiori, dire è intelligente ma non si applica, ma soprattutto mettevano in dubbio il fatto che io potessi essere intelligente, cioè proprio c'era un dubbio di base. Vi racconto questo piccolo aneddoto. Io per 4 anni al liceo scientifico feci latino, non ci capivo nulla, le versioni erano una roba tremenda per me. Arabe. Al 5° anno scatta quel click nel cervello per cui le versioni inizia a capirle, non so se a voi è mai capitato. Ho sempre vivacchiato. Al primo esame, alla prima versione vado dalla professoressa, sì, che mi dà il compito indietro e mi fa: bravo Poli, hai preso 9, hai copiato? E io, ma come ho copiato? No, profe. Perché la notizia era che tu hai preso 9 per la prima volta. Certo. Quindi di solito prendevi 6, 7. Esatto, dava per scontato che avessi preso. Giustamente ha messo in dubbio la tua. No, gli ho detto, profe, no, finalmente ho capito il latino, a prescindere dalle sue lezioni, gli ho detto. E che cosa è accaduto quell'estate in cui hai capito il latino? Mi sono sviluppato. Cerebralmente. E sono cresciuti i peli sotto le ascelle. All'improvviso si sveglia la mattina: mamma, c'ho i peli, guarda, c'ho i peli. Capisco il latino. Anche. The dominoes fall, it's time to go. Now I feel Allora, a proposito di intelligenza, abbiamo un ospite, come sempre, qui in studio con noi, dagli studi di Radio 24. Diamo il benvenuto a Barbascura X. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Anche se dici, a proposito di intelligenza, Barbascura, dai dei presupposti sbagliati. Allora, Barbascura decimo o Barbascura X? Decimo, come Barbascura preferisci. Per... In realtà l'anagrafe è Barba e Scura X, è il cognome? Scura X. Quindi poi per... Ma infatti il gioco che vogliamo fare è che, siccome lui non ci vuole, non vuole rivelare agli ascoltatori il suo nome vero, sì? Per tutta la puntata io proverò a indovinarlo. Cioè adesso lanciamone uno. Mario Caretti. Caretti? No. È vicino. Però... Veramente? No. Ti prende per il culo. E già ci prende per il culo. Allora, per chi non sapesse, Barbascura è un... Barbascura X è uno youtuber, un divulgatore scientifico. Ecco, diciamo che youtuber è l'ultima delle cose, però esatto, sì. Chiaro. Faccio anche YouTube. Lo utilizzi? Lo utilizzo no, molto. No, lo fa, proprio lo fa. Cioè, lo faccio proprio io, lo faccio a casa e poi lo regalo agli ma altri. Ma soprattutto sei un chimico, sei uno studioso, sei una persona che si applica nell'accademia. Mi piace che c'è questa sorpresa nella tua voce, nel tuo sguardo. Mi guardi e dici, soprattutto non ci crederete mai. Cioè, nonostante sto cappellino è un chimico. Da pirata, è tu un non chimico. Ci credi? Esatto. No, lo so, sì, ho un dottorato in chimica, tra l'altro chimica dei materiali da fonti rinnovabili. E ho lavorato all'estero moltissimo, quindi sì, vabbè. Sì, perché sei appena tornato tra l'altro dall'Olanda. Sì, l'ultimo anno e mezzo l'ho passato in Olanda, ad Amsterdam, dove lavoravo in un'azienda che produceva questi materiali da fonti rinnovabili. E quindi io ero uno dei chimici che faceva ricerca. Bernardo Merli. Basta! No. Mariolone Bubbarello è quello che si avvicina di più. Comunque, ho detto soprattutto perché se dal nostro canale YouTube riuscite a vedere i nostri video, vedete che lui non è il classico, non so come dire, non ha il physique du role del professore d'accademia o del ricercatore. E com'è Riccardo? Com'è? Perché ha l'orecchino, ha la barba lunga, i capelli lunghi. È un pirata. È un pirata. Diresti tutto tranne che un accademico, e invece lo sei stato. Sì, no, questo ci sta. Tra l'altro tu hai deciso, scusami, di non farti, insomma, di non usare il tuo nome vero per non sputtanarti nella comunità scientifica, diciamolo. Sì, no, il fatto era proprio quello. Perché esatto. Il fatto è questo. Tu scrivi articoli per la comunità scientifica, lavori, sei nel settore, esatto, ti allora, conoscono. Sì, per carità. Poi ci sono dei settori dove mi conosco particolarmente, perché noi siamo stati nel team di ricerca con cui ho lavorato nell'ultimo anno. Siamo stati, tra virgolette, gli unici al mondo. No, eravamo perlomeno gli unici al mondo a usare un nuovo tipo di materiale. Ok. E quindi, capito, era una cosa un po' particolare. Molto delicata, particolare, pionieristica. Sì, cioè, era una cosa molto bella per l'ambiente. I colleghi, no, guarda, è quel cretino che sta video su YouTube. No, a parte i colleghi che a un certo punto l'hanno scoperto, per carità, anche perché, insomma, io sono un idiota nella vita reale normalmente, quindi cioè, si scopre a un certo punto. Però il discorso era, mi preoccupava che qualcuno avesse scritto il mio nome su internet per cercare i miei articoli e gli usciva una fotografia di te con una parrucca vestito da banana. Perché non è bellissimo, cioè, per la tua Sì, io cerco di non prendermi sul serio mentre parlo di scienza. Lo faccio su YouTube, lo faccio tanto live, lo faccio in teatro, lo faccio sempre, perché è quello che mi piace, proprio insomma rompere questa immagine di accademia e raccontare polveroso, la scienza, certo, molto in maniera rock and roll, diciamo. Uh-huh. Però insomma io mi diverto tantissimo, lo faccio sempre per divertimento, non voglio avere alcun tipo di limite, quindi vorrei evitare che tipo il mio boss, infatti non l'ha mai scoperto. Sei riuscito a non farti scoprire? Sì, incredibilmente. Sì. Tra l'altro avevamo nella stanza dei dottorandi, avevamo attaccato al frigorifero una fotografia mia con un costume da dinosauro. Che cavalcavo un dinosauro, quello gonfiabile. E lei non so come non l'abbia mai visto, è entrata 10.000 volte e non l'ha mai visto. Forse perché il suo cervello si aveva un filtro, esatto. Ma senti, Barbascura, ti hanno mai detto sei intelligente ma non ti applichi? Sì, tantissimo. A scuola, immagino. Sì, a scuola. Allora, io onestamente io credo che sia un gesto di gentilezza della maestra o della professoressa nei tuoi confronti. Cioè, vuole dirti che sei uno stronzo, in sostanza. Okay. Però anche che potresti essere intelligente. Qualcuno potrebbe dire nel corso della tua vita che sei intelligente, perché un pochino sembri intelligente, però sei proprio uno stronzo, figlio mio. Quello è il discorso. Quindi tu non ti applicavi, copiavi. Allora, io personalmente riconosco che non so se è intelligente, ma di certo non mi applicavo. Ma penso che sia una cosa che riguarda tutti i ragazzi. Ti posso assicurare che io, parlando di storia della scienza, ti assicuro che la maggior parte degli scienziati che noi studiamo sui libri, quelli che consideriamo i più grandi scienziati del mondo, non si applicavano. Erano dei cazzoni. Allora, ecco, il fatto è questo. Molto spesso noi definiamo geni quelle persone che si interessano, che si applicano estremamente tanto in un determinato settore. Ossessivi, quasi con l'ossessione della... Perché quella è la loro passione. Se tu non c'è la passione per un argomento, ovviamente tu puoi provare a sfidare quella persona che chiami genio sullo stesso campo, ma tu non c'hai la passione. Quindi mentre lui passa 24 ore al giorno pensando sempre solo pensando solo a quello, perché è proprio un piacere, andando a documentarsi eccetera, tu lo fai con un briciolo di sforzo, con un, insomma, un bel po' di sforzo, perché comunque non è la tua passione. Tu casomai hai altre passioni, altre cose che ti piacerebbe fare, vorresti spendere il tuo tempo in altro e comunque modo. C'è sempre una birra lì che ti guarda e ti aspetta, esatto. Perché a un certo punto vince. Quindi quel non è intelligente ma si applica, secondo me è questo, cioè è il fatto che tu potenzialmente sei intelligente, potenzialmente puoi raggiungere grandi traguardi, però quello che stai studiando in quel momento non te ne frega un cazzo, cioè, esatto, sostanza. È vero. E quindi... e infatti, scusami, tu sei tornato in Italia proprio per presentare il tuo spettacolo teatrale che si intitola Il genio non esiste e a volte è un idiota. Sì. Cioè una raccolta di personaggi, di scienziati, forse sei, no? Sei scienziati, sì, sì, epocali, che però avevano dei lati oscuri. Sì, esatto. Cioè lo spettacolo in realtà è iniziato, ho iniziato a girare all'Italia con questo spettacolo da febbraio dell'anno scorso. Ah, ok. Quindi insomma ho già girato abbastanza in Italia. Adesso mi faccio delle altre tappe. Poi e quali sono i personaggi più allora, particolari? I personaggi di cui parlo sono Democrito, che è praticamente il filosofo, filosofo naturalista, che all'epoca significava scienziato, che ha introdotto per la prima volta la parola atomo. Mm-hmm. Sì. Nel 460 avanti Cristo. È vero, questo l'ho letto anch'io. Beh, bravo, ti sei applicato, eh? Sì, ho studiato. Il problema è che lui ha sparato a indovinare l'atomo che ha detto lui. Non era assolutamente l'atomo. Noi continuiamo a chiamare atomo quella cosa perché lui è stato il primo a immaginarsi un mondo a palline piccoline, esatto. Però in pratica l'atomo non è un cacchio di quello che ha detto lui. Lui dice, il mondo è fatto a palline. Ma tu, cioè se gli chiedevi, ma scusami, le hai mai viste? No. E come fai a dirlo? Boh, fidatevi, boh. Scusami, ma e la gente ci ha creduto. Era una bufala. È come un terracavista, come un terrapiattista. Certo. Mi immagino la terra sferica con dentro nulla. Sì. Può darsi. Vabbè. No, è piena di palline. Senti, sfatami un luogo comune. Einstein ha lasciato la scuola a un certo punto. È vero o non è vero? No, assolutamente non è vero. Questa cosa che gira, che è stato bocciato quando faceva le scuole elementari, ai matematici. Questa la usano quelli che sono stati bocciati per giustificarsi. Esatto. Mamma, guarda che anche Einstein. Scusami. Guardi signora, suo figlio è una non capra. Non sarà Einstein. Però anche Einstein all'inizio era una capra, poi certo. Dopo allora, quelli interessati a questa cosa, io adesso sta uscendo il libro dello spettacolo che si chiama sempre Il genio non esiste, a volte un idiota, in preordine su Amazon. Ah, se stiamo a fare una marchetta quindi. A marchettone, no, certo. Non ve lo dico tanto per marchetta, quanto perché ovviamente io non riuscirò mai a saziare la vostra fame, certo, di conoscenza in questa sede. Soprattutto se voi siete non stati... ne hai voglia adesso. E non ne ho assolutamente voglia perché mi sono svegliato 5 minuti fa e questo è stato il mio traguardo scientifico oggi. Quindi vabbè, il discorso è non riuscirei a spiegarvi perché Einstein, in particolare Einstein, fosse un idiota da quel punto di vista, perché lui ha fatto un sacco di cose assurde, però è impossibile spiegarlo qua perché vorrei fare, certo, un sono preambolo assurdo. Dai, non lo sa, dai, è evidente che non lo sì, sa. Sì, non ne ho idea. Non l'ha scritto lui il libro. Per quanto riguarda la matematica, lui andava benissimo in realtà alle scuole elementari, poi ha iniziato ad andare un po' peggio a scuola quando si è iscritto al ginnasio, al liceo, e questo perché era un ragazzo, e come tutti i ragazzi, cioè, gli piaceva un po' la vita, anche lui. Allora, e che tra l'altro lui andava anche bene nelle materie scientifiche, quelle umanistiche non si applicava, diciamo, era intelligente ma non si applicava. Esattamente come ognuno di noi ha la sua passione, lui aveva la passione, diciamo, per le materie più scientifiche. Poi all'università in realtà lui ha, tra l'altro, seguito tantissimo, lui ha fatto l'università di fisica, lui ha seguito tantissimo i corsi di fisica, quelli che gli interessavano, ha saltato tantissimi corsi perché non gli fregava una mazza, intant'è che poi si ritrovò nel corso della sua vita a dover chiedere aiuto ad un collega. Scusa, mi fai copiare? Aspetta. Esatto, cos'è? Era un collega che aveva fatto esattamente il suo stesso corso, però a differenza sua aveva seguito delle lezioni che lui aveva saltato, quindi si è fatto dare una mano da lui, per farvi capire. Anche Einstein fa queste cose. C'è una cosa che ti può aiutare. Sai quella storia che usiamo solo il 20% del cervello? Vabbè, la provo, dai, solo per curiosità. Con questo lo usi solo il 2%. Prima vedevo, ora ero cieco. È buona? Scopare! Questo è Maccio, eh? Maccio Capatonda di ormai quasi 8-10 anni fa. Sì, ormai lo rivedi oggi, è attualissimo. Ma secondo voi esistono quelle pastiglie che prendi una cosa e poi diventa il 2% il cervello? Si chiama droga. Esatto. Esistono, come sì, no? Sì, esistono. Senti, tu sei stato a un convegno di terrapiattisti, lo accennava sì. prima Alessandro, hai fatto un po' il debunker, come si usa dire. Sì, sì. Quanto ti sei divertito? Perché sei andato a un convegno di terrapiattisti? Allora, intanto per iniziare è successo per caso, giuro che non era... Sì, vabbè, non come era quando rimane incinta la tua ragazza, sì, sì. Non sappiamo come sia successo. Esatto, era bucato, ragazzi. Comunque, vabbè, sono andato là, tra l'altro mi sono imbucato perché a quanto pare c'era un biglietto d'ingresso di 20 euro da che pagare. Che tu col cazzo sì, è vero. Ma sai, quante persone c'erano? Perché in quel video c'erano poche persone, poi, allora, il fatto è questo. Dal punto di vista... non mi piace fare i conti, anche perché non lo so, però io penso che loro abbiano guadagnato moltissimo, tipo, dalla stampa. Perché il giorno prima c'era la stampa che veniva a parlare, certo. loro a fare domande, e quella sala era piena. Infatti tutti gli articoli che avete trovato sui giornali era dalla sala stampa loro. Quindi loro hanno pagato per entrare. Quindi la colpa non è dei terapiatisti, ma dei giornalisti che li intervistano. Sempre colpa nostra. Allora, colpa nostra. Il fatto è che noi siamo molto incuriositi. No, non do la colpa, perché per carità, se io fosse un giornalista ci sarei andato. Infatti ci sei andato, tu eri là, quindi. Io mi sono trovato per sbaglio e il mio obiettivo era quello di farci un video per il mio secondo canale YouTube, perché io c'ho un canale molto, diciamo, abbandonato a se stesso, in cui butto cazzate. Con un altro nome segreto, quindi dobbiamo... La mascura extra. Ah, il gioco non è vero. Sì, è lì che trovi tutte le cose belle. Scusa, ma c'è qualcosa che ti affascina delle teorie terrapiattiste, oppure sono proprio... Allora, il fatto è questo, i terrapiattisti non sono mai esistiti nel corso della storia, no? Sì. E la cosa mi fa ridere moltissimo, perché vabbè, si dice nel Medioevo erano nessuno nel corso della storia è mai stato terrapiattista. Barbero è venuto qua a confermarci questa cosa. Ci sono stati dei periodi in cui casomai c'erano dei movimenti che pensavano di essere, cioè pensavano alla terra piatta, però erano dei movimenti marginali. Addirittura quando questi movimenti che erano nati dalla Bibbia, no? I primi cattolici che sono arrivati in Europa venivano smentiti dagli intellettuali cattolici che dicevano: ma lasciate stare queste cose, lo diceva Sant'Agostino, diceva sì. ma lasciate stare queste cose, non facciamo figure di cacca nei confronti degli intellettuali che poi pensano che tutti i cattolici sono scemi. Sì. Quindi in sostanza il terrapiattismo non è mai esistito. Mi fa ridere perché esiste oggi che abbiamo le fotografie della Terra dello spazio, cioè, che esiste il terrapiattismo. Questo è quello che dici tu, questo è quello che dici tu, che le fotografie sono fatte dai computer. Sì, sì. Io mentre ero là al convegno terrapiattista c'era uno, non sono riuscito a riprendere questa cosa perché io ti assicuro che avevo 5 ore di materiale e ho dovuto tagliarmi in quei 40 minuti. Però una delle cose che non sono riuscito a riprendere era uno dei maestri terrapiattisti che c'era là, che raccontava di aver chiesto una volta alla NASA di essere mandato nello spazio per poter... Lui ha chiesto alla NASA? Ma ce lo mandiamo voi? O meglio, la storia in realtà era che, non mi ricordo in che modo, c'era mi sa un collaboratore della NASA che ha conosciuto eccetera, lui ha, questo collaboratore, diciamo, per fargli la battuta gli ha detto: adesso ti mandiamo nello spazio, guardi tu dallo spazio come la Terra e poi ci vieni a dire. E lui ha accettato e lì diceva: quello è sparito, voi l'avete più visto? Ma chi? No, aveva paura. Ma perché? Veramente? E tra l'altro io me lo immagino, lui che viene sparato nello spazio, poi perde conoscenza, certo. perché bisogna avere un bel fisico per fare queste cose, poi casomai si affaccia, tutto sboccato nella tuta spaziale, me lo immagino, si affaccia per guardare la Terra e dice: no, ma questo è un vetro, è un LED. Mi hanno drogato, sto vedendo una finzione. Sono ancora sulla Terra adesso, sono in una camera. Talking trippy on my plate. Allora, questo brano è stato composto da un'intelligenza artificiale, un bot sostanzialmente, cioè hanno dato in pasto a un computer una serie di canzoni di un cantante che si chiama, adesso ve lo dico subito, Travis Scott, sì. e hanno detto all'intelligenza artificiale: facci una canzone che somigli allo stile di Travis Scott. E ci ha messo due settimane di elaborazioni. Esattamente, è venuto fuori questo brano che non pecca di originalità, se vogliamo. Ma perché? Se non me l'avessi detto avrei detto... Stava nel mazzo. E tra l'altro l'autore l'hanno ribattezzato Travis Bot, così tanto per... Ma perché parliamo di intelligenza artificiale? Perché nel giro di redazione ci siamo detti: ma qual è l'intelligenza che si applica tantissimo ma non è molto intelligente? Probabilmente l'intelligenza artificiale. È vero, perché gli manca il cuore, Riccardo, sì. perché gli manca un'anima. No, per sapere perché abbiamo con noi Eliana Streppa. Ciao Eliana, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, tu sei un ingegnere elettronico biomedico, che esatto. applica esatto nell'ambito biomedico, ma sei anche una divulgatrice scientifica, è un po' come Barbascura, e hai un canale che si chiama To The Science and Beyond e parli molto di intelligenza artificiale. Sì, esatto, è un mondo molto affascinante, soprattutto visto che spesso le persone hanno paura, no, di quello che non conoscono, e hanno paura che l'intelligenza artificiale prenda il sopravvento e ci uccida tutti, quindi... Ma come ci ucciderà tutti? Sì. Anche tu sei Eliana, anche tu sei convinta di questa cosa, perché anch'io, eh? No, assolutamente no. Ah, non sei convinta? No. Io sono un ingegnere molto semplice, ho una mentalità molto lineare, quindi... Cioè, tu sei ottimista, cioè, secondo te le macchine non ci stermineranno? No, secondo me spera, le macchine è che le macchine dipendono da quello, sono uno strumento, quindi dipende da quello che noi ci faremo. Lo so, se si noi... dice, sì, guarda Eliana, si dice sempre così. Però uno poi un giorno inventerà una coscienza, no? Un'intelligenza artificiale autonoma che farà delle riflessioni, si guarderà attorno e dirà: "Ma sti ragazzi qua, ma non hanno sbagliato tutto. Hanno sbagliato tutto noi. Facciamo così, sterminiamoli. Faccio vedere, ci penso io". No, perché voi scienziati fate così, partite da un bellissimo, come dire, positivismo, anche la bomba atomica, no? E poi vi ritrovate è vero, tecnicamente è vero, è sempre così. Quindi attenzione, io faccio questo appello agli scienziati: attenzione all'ottimismo, occhio ragazzi, che è il profumo della vita. Aspetta, non puoi rallentare la scienza per le tue paure. Responsabilità, questa è la mia parola. Comunque Eliana, la cosa che volevo chiederti è: ma è vero che l'intelligenza artificiale è poco intelligente ma si applica molto? Cioè, può essere una cosa detta vera? Sì, assolutamente sì, tanto che probabilmente la utilizziamo tutti noi, anzi sicuramente la utilizziamo già tutti noi da diversi anni, tutti i giorni, quindi solo che sono applicazioni che uno non ci pensa, perché insomma non è che vai a pensare ad esempio come anche funzionano tutti Siri, gli oggetti. Siri e tutti gli device, per esempio. Sì, assolutamente sì. Tipo Spotify, scusami Eliana, tipo Spotify, cioè è incredibile come Spotify ti propone sempre la canzone perfetta che tu stai pensando. Ma anche il Daily Week, cioè una playlist che Spotify organizza per te, per esempio, che è fatta attraverso, cioè analizza, tra virgolette, diciamo i tuoi gusti musicali, e in base a quelli, no, crea una playlist che risponda un po' appunto ai tuoi gusti. Ma quindi l'intelligenza artificiale è stupida, si può dire? Ma il problema è che noi abbiamo questo vizietto di dover per forza paragonare le cose intorno a noi stessi. Sono due cose diverse. Cioè, l'intelligenza artificiale in realtà di partenza è stata chiamata intelligenza solo perché era un campo, diciamo, tecnico-scientifico che non è che si calcolavano tanto a livello di fondi, a livello di finanziamenti. Parliamo chiaramente in America, è nata questa cosa. E quindi per, diciamo, dare attenzione a questo campo hanno pensato: diamogli un nome, diciamo, accattivante, antropocentrico, diciamo. Esatto, esattamente. Quindi hanno detto: chiamiamola intelligenza artificiale. In realtà lo scopo è di imitare un pochino, diciamo, la natura, però non per questo il tipo di intelligenza che noi andiamo a sviluppare è veramente paragonabile alla nostra, anche perché, detto fra noi, non è che noi conosciamo così bene il funzionamento del cervello o della nostra intelligenza a poter veramente fare un paragone oggettivo, capito com'è? Certo. Sì, le terminazioni elettriche dei ragazzi ora gli stanno facendo dire di sì, hanno mosso la testa così, dicevano ti davano ragione. Senti, un altro luogo comune è che i robot ci ruberanno il lavoro, è un luogo comune che si sente soprattutto tra i politici, è una cosa... Basta secondo robot, te... basta, ora definiamola di robot, non li vogliamo più i robot. Succederà, l'industria 3.0, posso dire che i robot fanno male o no? È vero questo luogo comune? Allora, guarda, è una cosa di cui mi occupo anche per lavoro, perché è proprio fuori di dubbio che la robotica sta prendendo piede, ma questo da tipo almeno 5, se non anche 10 anni a questa parte, nel mondo lavorativo. Questo è proprio, sta avvenendo già da diversi anni. Quello che su cui dobbiamo ragionare è che nel frattempo, sia a livello europeo, ad esempio, ci stiamo già muovendo per creare una legislatura che difenda, per esempio, i posti dei lavoratori, che permetta di fare quello che in gergo si chiama upskilling o reskilling, cioè una persona che ha delle skill, quindi delle competenze, tu cerchi di migliorarle, quindi fare in modo che impari a gestire questi robot o creare delle nuove competenze affinché questa persona sia comunque spendibile a livello lavorativo. Scusate ragazzi, ma quanto sarebbe bello avere un botto di robot e noi che non facciamo un cazzo tutto il giorno, avere il dominio sui robot. Arriverebbe un politico a dirti: prima gli esseri umani, te lo assicuro. Sì, arriverebbe il suo robot a dirti il politico. Allora Eliana, grazie mille per questo intervento sull'intelligenza artificiale. artificiale. Grazie mille di essere stata con noi. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Barbascura, tu nel tuo canale YouTube parli molto spesso della natura. Sì. Hai tutta una serie di video sulla natura e fai, diciamo, divulgazione su come noi abbiamo in qualche modo creato un idillio della natura. In realtà la natura non è così idilliaca. Ti chiedo velocemente una classifica veloce dei tre animali più stupidi che tu hai incontrato o studiato. Allora, terzo posto, al mio parere, sì, il plankton. Perché? Velocemente. No, non per intelligenza, ma perché cazzo il plankton se lo mangiano tutti e lui sta là, non sta facendo, si fa i cazzi suoi. E pensa quanto è altruista il plankton. Cioè sì, però capito, io sono un plankton, sto là in mezzo, a un certo punto io vedo un'ombra, non capisco cosa sta succedendo e sono morto. Ok. Sì, cioè, poi il plankton noi identifichiamo tipo un mare di microorganismi completamente diversi tra di loro, del tipo non c'hanno manco un nome, siete plankton. Siete plankton, quindi niente, è stupido. Al secondo posto. Assolutamente il koala. Ma perché? Il koala dal punto di vista intelligenza proprio è un idiota al 100%. Non ce la fa. Quali sono le cose che lo contraddistinguono perché non ce la fa? Allora, partiamo dal presupposto che il koala ha il cervello piatto, come terra piattissima, molto piccolo. È una pizza. Allora, noi abbiamo il cervello, sapete che ci sono queste curve sul cervello. Questo è un processo evolutivo che ha permesso di ottimizzare la superficie e le aree del nostro cervello in modo tale da averle più estese. Lui ce l'ha piatto, non gli fregava niente. Lui dorme 20 ore al giorno, le restanti 4 ore al giorno che gli restano mangia e fissa caga un muro. Tra l'altro caga mentre dorme. Beh, è bellissima questa, voglio farlo anch'io. È un animale veramente di merda, è stato definito dai naturalisti l'animale più noioso del mondo e il fatto che sia coccoloso non giustifica assolutamente la sua esistenza. Ok. E quindi sì, questo animale primo posto ovviamente, non vi dico niente, un animale che merita l'estinzione al 100%. Perché? Allora, è un animale che non è adatto al momento a sopravvivere, noi lo stiamo facendo sopravvivere a tutti i costi, lui non vuole scopare, non vuole riprodursi, non vuole portare avanti la specie. Il panda può riprodursi, la femmina è in calore circa 3 giorni durante l'intero anno. Se il maschio ficca in quei 3 giorni, mamma lei forse resta incinta. Allora, con questa classifica dei tre animali più stupidi, secondo ovviamente il giudizio di Barbascura X, gli animalisti non ce ne vorranno. Noi, cari ascoltatori, lo dice la scienza la scienza brutta. Noi vi salutiamo, vi ricordiamo i nostri contatti. Allora, Facebook offtopic-radio24, Instagram offtopic24, la mail offtopic@radio24.it e il numero WhatsApp 340-8303-758. Ma la cosa più importante da ricordare è che noi il 27, il 28 e il 29 marzo siamo al Teatro Filodrammatici a Milano a fare i cretini. Facciamo uno spettacolo, sfattiamo luoghi comuni, venite a trovarci, faremo un sacco di cose. Il pubblico, voi avrete le cuffie, tanti effetti speciali. E metteremo in palio i biglietti nelle prossime settimane. Ti chiedo di finire una frase. E ricordatevi che se non avessimo inventato la ruota, la ruota avremmo inventato noi. Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.